La storia dei Cenci è una storia che è entrata nella leggenda e nel cuore dell'animo della gente di Roma, e questo soprattutto grazie al personaggio, che in realtà è una persona realmente esistita, che è quello di Beatrice. Come molti sapranno, la storia dei Cenci è una storia che si è veramente svolta a Roma, nella Roma del Cinquecento, e è entrata appunto nel cuore della gente, ma anche della letteratura e dell'arte, perché questo personaggio è stato rappresentato e su di lui, su di lei, si è scritto molto, da Artaud a Shelley, a Moravia, a Dumas. Ma la storia, la versione della storia che abbiamo scelto di raccontare è quello di Stendhal, autore francese che visse a Roma nell'Ottocento, precisamente fra gli anni 20 e gli anni 30 dell'Ottocento, lavorava presso l'ambasciata di Francia, e lui nella sua versione all'interno delle cronache italiane, per l'appunto, ci dice che trova questa storia all'interno di un manoscritto di un'antica biblioteca di Via delle Botteghe Oscure, e sceglie di raccontare questa storia insieme a molte altre per presentare al pubblico francese lo spirito, l'animo italiano, la vera essenza di questo popolo combattivo, appassionato e passionale. La storia comincia e si svolge al ghetto. Il ghetto all'epoca, nel Cinquecento, stava vedendo appunto la sua costruzione, perché da poco era stato dato l'ordine da parte del Papa, di Paolo VI, di trasferire tutti quanti gli ebrei in quella zona lì, su imitazione di quello che era il ghetto di Venezia. Siamo nel rione Sant'Angelo, il più piccolo rione di Roma, al portico d'Ottavia, con il teatro di Marcello sullo sfondo, e qui sorge appunto il complesso edilizio dei Cenci, un complesso che in realtà esisteva già nel XII secolo, in quanto la famiglia era una famiglia molto antica e molto potente, e il padre di Francesco Cenci, Cristoforo, era un uomo molto ricco. Francesco Cenci è il padre di Beatrice e colui che mosse questa storia, da cui il carattere fa nascere appunto questa storia. La storia appunto si svolge alla fine del Cinquecento e verrà raccontata da un personaggio che la visse in prima persona. Mi chiamo Lucrezia Petroni. Probabilmente il mio nome non dirà niente a nessuno, ma è del tutto normale, perché forse invece conoscete la mia figliastra, Beatrice Cenci. Lei sì che l'avrete sicuramente sentita nominare. A lei è stata dedicata una piccola via nel centro di Roma, e lei è stata ritratta dal nostro amico e pittore Guido Reni. Stendhal ci racconta che l'ultima notte di vita di Beatrice e di Lucrezia trascorse in maniera molto travagliata, e più avanti sarà la stessa Lucrezia a raccontarcelo, e ci dice anche appunto che le andò a trovare Guido Reni, pittore bolognese, allievo dei Carracci, che si sa per certo lavorò a Roma proprio in quegli anni, alla fine del Cinquecento. Fra l'altro lavorò al Quirinale in Santa Maria Maggiore. Non sappiamo in realtà se il ritratto che oggi è conservato a Palazzo Barberini sia veramente quello di Beatrice Cenci, e anche l'attribuzione all'autore Guido Reni è stata a lungo tempo dibattuta. Sicuramente è il ritratto di una fanciulla, di una giovane donna, che potrebbe veramente essere quello di Beatrice, perché se lo guardiamo vediamo una giovane donna malinconica, triste, ripiegata sui suoi pensieri. Come è rappresentata? È rappresentata, pare, nei panni di una sibilla, vestita di semplici abiti bianchi, un turbante anch'esso bianco, una camicia e lo sguardo appunto perso. Siamo ormai nella Roma post-rinascimentale, la Roma della Controriforma, una Roma cupa e anche violenta. E sembra proprio che in quel ritratto tutto questo sia stato trasferito, oltre ovviamente alla storia stessa di Beatrice. Il quadro del 1599, e insieme a questo quadro un altro dipinto molto celebre e bello si trova a Palazzo Barberini, ed è quello dipinto da Caravaggio, Giuditta Oloferne, e pare che lo stesso Caravaggio, anche lui all'epoca a Roma, abbia assistito proprio all'esecuzione di Beatrice nel 1599, quindi al suo ultimo giorno di vita, come molte altre persone fecero. E pare che il quadro di Giuditta Oloferne con il personaggio appunto di Giuditta, questa giovane nobile egiziana ebrea che decapita il generale Assiro Oloferne. E cosa ci dice questo quadro? Sicuramente ci dice la reazione che una giovane donna ebbe di fronte a una violenza subita e il riscatto che essa stessa seppe trovare nelle sue azioni e nella sua volontà. Quindi non sappiamo se Caravaggio si sia ispirato a Beatrice, ma sicuramente entrambe, sia Beatrice che Giuditta, ci presentano la forza di due donne che dalla loro fragilità sono riuscite a emergere. Ero considerata una delle ragazze più belle di Roma, un po' troppo pingue, come ahimè spesso succede alle romane, ma la prima volta che io lo vidi me ne innamorai perdutamente. Ai miei occhi era l'uomo più bello che io avessi mai visto. Era alto, aitante, con due belle spalle larghe e due occhietti neri infossati nelle orbite profonde. Io decisi immediatamente che sarebbe stato lui l'uomo che avrei sposato. Si chiamava Francesco Cenci. Quando io lo conobbi era già stato in prigione due volte e già tutte e due le volte sempre per crimini contro donne. Immaginate la reazione di mio padre quando io dissi che era quello l'uomo che io volevo sposare. Il suo no fu fermo e deciso. Ma sapete tutti benissimo che non si può fermare una donna innamorata. E allora io tanto feci e tanto dissi finché finalmente riuscii a sposarlo. Entrai nella grande casa, nel grande palazzo Cenci, da donna, da padrona di casa, da madre, sì, dico madre, perché c'erano lì ancora alcuni figli, altri di un precedente matrimonio erano scomparsi in circostanze misteriose. Dovete sapere che Francesco dedicava la maggior parte del suo tempo alla costruzione di una piccola chiesa, proprio nello stesso comprensorio dove abitavamo noi, la chiesa di San Tommaso ai Cenci. Andava tutti i giorni lì a seguire i lavori, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. E quando tornava a casa e quando parlava con gli operai, diceva che l'unico motivo al mondo per cui faceva costruire quella piccola chiesa è che ci voleva veder seppelliti dentro tutti e sette i suoi figli prima della sua stessa morte. In realtà la chiesa di San Tommaso ai Cenci esisteva da molto tempo, sin da quando abbiamo notizie dello stesso Palazzo Cenci in epoca medievale, e all'epoca si chiamava San Tommaso alle Mole, proprio per riallacciarsi ai mulini, le cosiddette mole, che erano sulla sponda del Tevere, subito adiacente alla chiesa di San Tommaso. Una chiesa che appunto segue la famiglia Cenci in tutta la sua lunga storia, ma arriva sotto la giurisdizione di Cristoforo Cenci, di suo figlio Francesco, soltanto nel 1555, quando la famiglia decide di far ricostruire un nuovo palazzo e insieme anche appunto la chiesa di San Tommaso. E di questo rimane una lapide come segno proprio dell'inizio dei lavori e della seguente ristrutturazione. Quindi Stendhal in qualche modo ci dice come questa chiesa, un luogo sacro, sia stato profanato, volesse essere stato profanato, voleva essere Francesco Cenci a profanarlo con il seppellimento appunto di tutti i suoi sette figli. In effetti lui aveva avuto sette figli, in realtà ne aveva avuti 12, ma soltanto sette erano arrivati all'età adulta. Li aveva avuti dalla sua prima moglie, che era morta però in età molto giovane, ed era ovviamente la madre di Beatrice. Questi sette figli erano 5 maschi e 2 femmine. Le 2 femmine erano appunto Beatrice ed Antonina, e dopo la morte della madre furono rinchiuse nel convento delle Francescane a Montecitorio. Nel 1583, quando Beatrice ormai era grandicella, viene riportata a casa e vede anche suo padre sposarsi con un'altra donna, appunto Lucrezia Petroni. Pare che la stessa Lucrezia avesse già una figlia da un precedente matrimonio, ma che ahimè questa figlia sia stata uccisa proprio da Francesco. Ecco qui che il personaggio di Francesco Cenci emerge in tutta quanta la sua cattiveria e appunto malvagità, una malvagità che aveva quasi qualcosa di così di perverso, e infatti fu condannato moltissime volte, fu processato per fatti di sangue, per gioco d'azzardo e anche per sodomia, che all'epoca era una condanna, diciamo, punibile appunto con la pena di morte, un reato punibile con la pena di morte. Ma Francesco ovviamente era un uomo troppo potente e troppo ostinato a voler vivere la sua vita, e quindi pagò ingenti somme di denaro che fra l'altro contribuirono a far diminuire molto il patrimonio della famiglia Cenci, e quindi diciamo ebbe salva la vita in varie occasioni. Non era un uomo anziano all'epoca dei fatti che noi raccontiamo, ma sicuramente la sua condotta di vita aveva provato molto il suo fisico, e infatti sappiamo che era malato sia di rogna che di gotta, e possiamo immaginare che queste sofferenze acuissero ancora di più il suo terribile carattere. Beatrice vuole sposarsi per scappare ovviamente dal gioco di questo padre. Ci riuscirà sua sorella Antonina. Tre dei suoi fratelli saranno uccisi proprio dal padre in Spagna con delle macchinazioni, e quindi rimangono soltanto in casa Beatrice, la sua matrigna Lucrezia, Giacomo e Bernardo, due fratelli più piccoli di Beatrice. Beatrice vuole sposarsi, manda una supplica al Papa, ma non ce la farà. Francesco aveva una figlia primogenita, Antonina, che voleva sposarsi sopra ogni altra cosa. Aveva un amato con cui voleva congiungersi e vivere finalmente una vita felice, serena e tranquilla. Ma Francesco Cenci rifiutò ogni richiesta e rifiutò anche una prima supplica che era stata mandata al Papa. Allora, con l'aiuto del fratello Giacomo, ne mandarono una seconda e finalmente arrivò la risposta. Sì, sì, Francesco Cenci doveva dare la sua approvazione, doveva permettere quel matrimonio, e non solo lo doveva permettere, doveva dare ad Antonina una cospicua dote. Francesco Cenci decise che la stessa sorte non sarebbe mai capitata alla sua secondogenita, Beatrice. Andiamo un po' a capire com'era la Roma dell'epoca. Abbiamo detto, siamo alla fine del Cinquecento, e la violenza sicuramente era abbondante nelle strade di Roma, della città. All'epoca molto appannaggio dei briganti. Il Papa, che diviene pontefice nel 1592, è Aldo Brandini, Papa marchigiano, che prende il nome di Clemente VIII e porta avanti la politica rigida, molto dura, repressiva di Sisto V, conosciuto come il Papa Tosto, morto 7 anni prima. Nel frattempo c'era stato un altro pontificato che non era stato così efficace nel combattere il malcostume. Siamo, non dimentichiamolo, nel cuore del periodo della Controriforma, dopo il Concilio di Trento, e siamo ormai lontani dalla Roma paganeggiante e rinascimentale di Leone X, di Giulio II e anche di Papa Farnese. Ora è tempo di riportare Roma al cuore della cristianità, nel centro di comando sostanzialmente, perché essere al centro della vita spirituale significava anche essere al centro della vita politica. Quindi il Papa cosa fa? Ha una linea molto dura contro il brigantaggio, ma anche contro quei reati di malcostume, di cattivo comportamento, così lui li definiva, che erano spesso commessi anche dagli stessi nobili, e Francesco Cenci appunto ne è un esempio lampante. Quindi porta avanti quest'opera di ripulitura, di pulizia dell'etica, se così vogliamo dire, della vita romana, soprattutto anche a livello più alto, e nel frattempo porta avanti una politica missionaria di cercare di ravvicinare i paesi del nord Europa sempre alla Chiesa di Roma. Fallirà con Giacomo I in Inghilterra, ma riuscirà a portare dalla sua parte il re di Francia Enrico IV, e a avere un appoggio quindi anche nell'ampliamento dei confini della Chiesa verso nord, e da qui che si annetterà il Ducato di Ferrara, la corte d'Este. Quel primo matrimonio lo aveva fatto talmente arrabbiare da quasi impazzire. No, No, la stessa sorte non sarebbe mai capitata a Beatrice. E allora la fece relegare in due stanzette, in due minuscole stanzette sulla cima del palazzo. Nessuno poteva entrare, nessuno poteva uscire, soltanto lui, lui stesso, portava alla giovane ragazza che all'epoca dei fatti che io vi parlo era un bocciolo di rosa da appena 15 anni, fragile e gracile, andava lui stesso. Nessuno, nessuno, nemmeno le dame di compagnia potevano portare un po' di conforto per qualche ora a quella ragazza. Comunque le sue azioni erano sempre più strane e sempre più inquietanti. Camminava nudo per il palazzo durante tutta la notte e poi dai piani superiori si sentivano urla e strepiti, ma erano urla e strepiti che io non volevo sentire, e come tutte le donne innamorate io ero cieca e sorda. Ma poi le cose passarono il segno, la trascinava lungo i corridoi finché una notte la trascinò proprio nella nostra stanza e alle luci fioche di una lampada davanti ai miei occhi abusò di lei. Io non riuscii a muovermi, io non riuscii a fare nulla, il mio grosso corpo rimase lì fermo come un'enorme statua di sale, ma in quello sguardo, in quegli occhi, in quei nostri due paia di occhi che si incontravano, capimmo che qualcosa doveva cambiare, doveva cambiare per sempre, niente sarebbe più potuto essere come prima. E allora il giorno dopo io subito cominciai a parlare con le persone con cui potevo parlare. Io parlai con Giacomo, che era il fratello maggiore rimasto lì dentro casa, io parlai con Monsignor Guerra. Monsignor Guerra era un prelato che molto volentieri avrebbe lasciato la mantelletta per sposare Beatrice, ma sembrava che nessuno potesse fare niente. E nel frattempo gli urli, gli strepiti continuavano e continuavano, e anche le botte, le lamentazioni, finché ci parlammo di nuovo con Giacomo e con Beatrice e decidemmo che c'era un'unica soluzione: Francesco Cenci doveva morire. Ora dovete sapere che Francesco era un uomo molto, molto attento, stava attento a qualsiasi cosa mangiasse, stava attento a qualsiasi cosa indossasse, a tutte le persone con cui si accompagnava. Non era facile avvicinare Francesco Cenci, ma lui usciva di casa senza scorta soltanto una volta durante l'anno, quando andava a passare le vacanze estive alla Rocca di Petrella. Dovete sapere che a quel tempo le strade intorno a Roma erano pericolose e piene di briganti. Non sarebbe sembrato poi così strano se lui fosse rimasto vittima di un agguato o caduto così dentro un'imboscata. E quindi noi, con l'aiuto di Monsignor Guerra, contattammo due sicari, Olimpio e Marzio. Ma poi, come spesso capita in questi casi, le informazioni arrivarono in ritardo, arrivarono sbagliate, e così finalmente successe che Francesco arrivò sano e salvo alla Rocca di Petrella. In realtà Francesco Cenci arrivò sano alla Rocca di Petrella, ma come abbiamo già detto in cattive condizioni di salute, uomo provato probabilmente anche dalla sua condotta di vita interiore verso i suoi familiari. Lucrezia e Beatrice erano già state mandate da lui stesso nella Rocca di Petrella per allontanarle, erano quasi state esiliate proprio per la volontà di Beatrice di sposarsi e di sfuggire a quella vita. Quindi in qualche modo forse furono contente di essere mandate in quel luogo lontano, in campagna, quasi in montagna. Ma ben presto appunto arrivò anche Francesco, e quella pace che forse si erano costruite con molta fatica finì ben presto. Quando Francesco arrivò a Petrella le cose peggiorarono e peggiorarono di giorno in giorno. Ora lui non rivolgeva più le sue attenzioni soltanto contro la povera Beatrice, ma adesso anche contro di me, ed erano violenze di ogni tipo, di un'efferatezza che non aveva uguale. E allora, nonostante che noi sapessimo che ne andava della nostra stessa incolumità, decidemmo che Francesco Cenci doveva morire in casa. Doveva morire, ma come farlo morire? Sicuramente non sarebbe voluta Beatrice essere l'autrice di questo delitto efferato, una nobile donna addirittura allevata dalle suore francescane, e neanche Lucrezia, anche lei nobildonna, abituata più alla meditazione, ormai non chiedeva più niente alla vita, e neanche il giovane Bernardo, il giovane figlio più piccolo di tutta la famiglia. E quindi, come spesso si faceva all'epoca, si cercavano alleati da cui far commettere il delitto, quindi la manodopera che pare fosse molto vicina a Beatrice, almeno uno di essi. Ci eravamo riuscite, lo avevamo drogato, avevamo messo dell'oppio dentro al suo vino, quel vino che lui controllava con tanta attenzione, e lui lo aveva bevuto. Eccolo, era lì, per terra, inerme, ed era pronto ad essere assassinato. Così chiamammo i due sicari, Olimpio e Marzio, e dicemmo di finire la bisogna per la quale erano stati chiamati, ma no. Loro dissero che non se la sentivano di infierire contro un povero vecchio che era lì, steso, e non si poteva difendere. E allora saltò su Beatrice, e dall'alto dei suoi 15 anni disse che se non se la sentivano due sicari prezzolati di fare quello per cui erano stati pagati, lo avrebbe fatto lei, e lo avrebbe fatto lei con le sue stesse mani, che a lei la parola parricidio non faceva paura per niente. A sentire queste parole, i due sicari presero la decisione. Presero due lunghi chiodi. Il primo lo piantarono proprio al centro della gola di Francesco, e con un unico colpo, pah, lo passarono da parte a parte. Il secondo chiodo lo misero proprio nel centro della fronte, e di nuovo un unico colpo e pah, la testa si aprì in due e il cervello si sparse fuori. Noi non avemmo neanche un momento di commozione, neanche un momento di dubbio, neanche un momento di pena per quel cadavere. Prendemmo un grande, grande lenzuolo bianco e lo girammo una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte e sei volte, e poi lo trascinammo lungo il corridoio, e poi lo buttammo giù per le scale, dove giù in fondo c'era il gabinetto, che tutti sapessero che Francesco Cenci era morto vicino al gabinetto. Si finì di rompere la testa contro un sicomoro, e per noi sarebbe stata la fine di quella storia, se non fosse stato per la loro stessa incuria, sì, lo possiamo dire, perché in realtà l'omicidio di Francesco Cenci fu spacciato per un incidente, quindi per un fatto accidentale, ma era chiaramente evidente che così non era stato. Lì per lì nessuno volle indagare su questo fatto, ma ben presto il ritrovamento del corpo di quest'uomo così conosciuto, ovviamente più per i suoi demeriti che per i suoi meriti, e comunque il fatto che fosse una famiglia molto ricca, attirò le attenzioni di giudici e di medici. Dobbiamo ricordare che all'epoca la Rocca di Petrella, oggi Petrella Salto, si trovava nel Regno di Napoli, quindi fuori dalla giurisdizione del pontefice. Le indagini appunto iniziarono proprio dal Regno di Napoli. Arrivarono dei dottori, fecero l'autopsia, e fu subito chiaro che la versione data dalla famiglia non corrispondeva con le ferite trovate sul corpo, sul cadavere. Quindi partono delle indagini più approfondite, e qui Stendhal e anche la storia ufficiale ci raccontano che un personaggio chiave in questa vicenda fu proprio una lavandaia, una donna di lavoro, una donna umile che forse ne aveva viste molte, ma col suo buon senso non riusciva a capire come poteva essere che quell'uomo non fosse stato ucciso, ma fosse stato trovato così per una sua caduta. Infatti Beatrice, probabilmente nella foga di essersi liberata, nell'euforia di essersi liberata di questo padre così importante, invadente, aveva detto che il lenzuolo insanguinato che lei aveva dato da lavare alla lavandaia era insanguinato perché l'aveva usato durante il suo ciclo. La lavandaia confermò che lei non aveva mai creduto a questa versione, che c'era qualcosa di losco sotto. E quindi da questa deposizione partirono le indagini più approfondite da parte della curia romana, quindi l'indagine passa dalla giurisdizione pontificia e pare che fu lo stesso Clemente VIII a occuparsene. Ovviamente se ne volle occupare per la posizione della famiglia, per lo status e anche ovviamente per i possedimenti che rischiavano di rimanere senza appunto un erede. Quindi cosa succede? Succede che le indagini subito chiariscono, quasi subito, che era stata proprio la famiglia a volere la morte di Francesco Cenci. E nonostante tutti quanti, anche appunto i più umili a Roma, la gente del popolo, conoscesse il pessimo carattere, il pessimo soggetto che era Francesco Cenci, non fu così ovvio che questa morte fosse stata una legittima difesa, che questo assassino fosse stato proprio appunto una legittima difesa, una voglia finalmente di liberarsi dall'oppressore. Perché Beatrice, Giacomo, Lucrezia e in parte Bernardo, il figlio più piccolo, vengono in qualche modo accusati di omicidio. Vengono accusati di omicidio e non servirà a molto l'arringa del celebre avvocato principe del foro Prospero Farinacci, che durante la sua arringa, peraltro tenuta dopo l'emissione della sentenza, quindi a sentenza già emessa, proclamò che Beatrice aveva voluto uccidere suo padre perché era stata violentata. Ma lei mai confermò questa versione, mai confermò questo atto di violenza, anche se forse possiamo pensare che fosse andata così, in qualche modo. Ma Beatrice probabilmente non aveva voluto, di fronte all'aula del tribunale, macchiare la propria dignità. Quindi vengono tutti e tre condannati a morte, Lucrezia e Beatrice per decapitazione. E Giacomo, invece, fu scuoiato vivo. Monsignor Guerra, colui che aveva trovato per noi i due sicari, Olimpio e Marzio, scappò da Roma travestito da donna. A noi, invece, ci trascinarono in prigione. E prima mi chiusero in una piccola cella, in una piccola, minuscola cella nera, e mi lasciarono due giorni e due notti senza mangiare. Io che non avevo mai saltato un pasto in vita mia, io che non sapevo nemmeno che cosa volesse dire avere fame, avere freddo, avere paura, ero relegata lì, in questa piccola stanza buia. Ma il peggio doveva ancora venire, perché dopo un po' cominciarono gli interrogatori, molto molto pressanti, e dopo gli interrogatori le torture. Mi appesero per i miei stessi polsi al soffitto della mia piccola piccolissima cella, e in un solo momento mi si slogarono i polsi, i gomiti e le spalle, e il dolore era indescrivibile, era il dolore più forte che io avessi mai sentito in tutta la mia vita. Allora io dissi che sì, che eravamo stati noi, ma che avevamo fatto bene, che quello che noi avevamo fatto era soltanto un atto di giustizia. Mi rispose soltanto il silenzio, nessuno disse niente, nessuno fece niente, soltanto mi tirarono giù e mi portarono nella cella accanto, dove c'era Beatrice. Beatrice era attaccata per i suoi stessi capelli, ma non diceva niente, non una lacrima rigava il suo bel viso. E allora io mi slanciai ai suoi piedi e dissi: figlia, confessa, di quello che abbiamo fatto, perché loro capiranno che quello che noi abbiamo fatto è stato soltanto un atto di giustizia. Ma lei non disse nemmeno una parola. Allora la tirarono giù e finalmente ci misero insieme in una cella, e lì aspettammo minuti che sembravano ore. E poi finalmente, nel cuore della notte, la sentenza per i Cenci era morte. Beatrice sembrò come impazzita, cominciò a urlare, a strepitare e a sbattersi contro le sbarre della cella, ferendosi su tutto il corpo. Allora io finalmente, questa volta sì, la strinsi tra le mie forti braccia e dissi: Beatrice, figlia, ascoltami, dobbiamo morire con la stessa dignità con cui abbiamo sempre vissuto. E allora si calmò. Chiedemmo di poterci confessare, di poter assistere alla messa, di poter mangiare un ultimo pasto. Io, che sono una donna previdente, avevo fatto confezionare per noi degli abiti per questa occasione. Io avevo un abito lungo, molto semplice, una tunica lunga fino ai piedi di raso nero, delle semplici babucce di velluto e un velo nero sul capo. Ero pur sempre una vedova. E invece per Beatrice una semplice tunica azzurra e un turbante. Sì, sembrava un po' una sibilla. E quella sera venne Guido Reni a trovarci. E poi ci preparammo per andare a Castel Sant'Angelo. Ci misero una dietro l'altra, ci legarono i polsi con delle catene, giusto lo spazio per poter tenere una piccola croce. E cominciammo a camminare all'alba verso Castel Sant'Angelo. E lì successe quello che mai nessuno di noi si sarebbe mai neanche immaginato. Tutte le finestre di Roma, una dopo l'altra, all'inizio timidamente, si cominciarono ad aprire e dei flebili sussurri ad uscire: coraggio, coraggio, il popolo di Roma è con voi, voi siete innocenti, innocenti, innocenti, liberatele, liberatele, liberatele, siete innocenti, innocenti. E la voce si faceva via via più grande, più grossa, più forte, fino a che partì un applauso e noi arrivammo sul grande piazzale di Castel Sant'Angelo tra due ali di popolo plaudente. E in effetti sì, arrivarono a Castel Sant'Angelo e tutto il popolo di Roma sembrava si fosse riunito intorno a questa famiglia, intorno a queste povere vittime, quali in realtà erano. E appunto Lucrezia e Beatrice erano attese dal boia, mentre Giacomo era stato costretto alla sedia, legato, ad assistere alla loro esecuzione. Arrivammo davanti a Castel Sant'Angelo, la piazza era gremita. Era talmente piena che dava l'impressione che se si fosse lanciata una monetina non sarebbe potuta arrivare per terra. E prima c'era un gran rumoreggiare e poi appena ci avvicinammo il silenzio. Un silenzio molto, molto denso sulla grande piazza. In fondo c'era il patibolo, il patibolo. Io non l'avevo neanche mai visto un patibolo. Io non sapevo nemmeno come fosse fatto un patibolo. Figuriamoci se una donna come me assiste a tali spettacoli. Comunque, io non mi feci far paura. Mi raddrizzai e camminai dritta verso il patibolo. C'erano tre scalini. Feci il primo. Sul secondo inciampai e sentii tutti i respiri di tutti. Le migliaia di persone sulla piazza sospendersi insieme al mio respiro. E allora sentii che erano tutti con me. Sul fondo della piazza qualche tafferuglio, subito messo a tacere dalle guardie. E poi, e allora con gran fierezza, che feci il mio ultimo scalino. E poi guardai il boia, perché io non sapevo che cosa si dovesse fare. Mi disse di scoprirmi il capo e di togliermi le scarpe. E io, Lucrezia Petroni, la nobile Lucrezia Petroni, con le braccia, il capo e i piedi nudi davanti alla folla. Sì, ma io non avevo vergogna, io non avevo la minima vergogna, perché sapevo che quello che noi avevamo fatto era soltanto giusto. E allora mi spogliai e appoggiai la mia testa, che zac! Saltò via in un attimo. Anche Beatrice morì in quell'occasione. Giacomo fu ucciso in un altro modo, in un altro momento. Però ci sono ancora due cose che io vi voglio dire. La prima è che quando eravamo in carcere, Beatrice a ogni persona che veniva chiedeva denaro, denaro, denaro, denaro e ancora denaro. E quando morì aveva accumulato l'incredibile somma di 160.000 piastre d'oro, un tesoro incommensurabile. L'aveva dato da gestire ad alcune religiose e queste religiose dovevano dare una dote a qualunque giovane donna si volesse sposare contro la volontà del padre. L'altra cosa è che quel giorno c'era così tanta gente, tanta calca, e le persone si calpestavano le une con le altre. E con noi morì anche un giovane ragazzo, Ubaldino Ubaldini, un ragazzo del popolo. Bene, ci tengo a ricordarlo qui con voi e a dirvi che noi cenci, a essere morti con Ubaldino Ubaldini, ci riteniamo molto fieri. Il giorno era l'11 settembre del 1599. Francesco Cenci era nato l'11 novembre del 1549. 50 anni dopo la sua famiglia seguiva la sua condizione di vittima in qualche modo. Beatrice venne sepolta a San Pietro in Montorio. Nel 1799 le sue spoglie furono profanate. Lucrezia Petroni venne sepolta a San Giorgio a Velabro. Il giovane Bernardo fu in qualche modo salvato da questa fine orribile, ma fu condannato ai remi perpetui, cioè a remare nelle galere vaticane per molti anni. Soltanto l'esborso di ingenti somme di denaro, in qualche modo recuperate, forse dall'eredità paterna, gli consentirono di tirarsi fuori da quella condizione di schiavitù, perché il pontefice Clemente VIII aveva requisito tutti quanti i beni di famiglia e li aveva delegati a suo nipote, Ascanio Aldobrandini. Ogni giorno dell'11 settembre, nella chiesa di San Tommaso ai Cenci, si tiene una celebrazione, una funzione sacra per ricordare proprio Beatrice e Giacomo, ad opera della confraternita dei Vetturini Romani, che oggi gestiscono la chiesa. E proprio lì, nell'isola dei Cenci, passando sotto l'arco anch'esso dei Cenci, si può ancora ricordare la storia di Beatrice.